Una corrispondenza dal corteo partito dalla Sapienza, dico bene, pronto? Sì, sì, pronto, ciao. Ciao. Noi siamo partiti dalla Sapienza, c'era qualche scuola di San Lorenzo, ci ha raggiunto anche il resto degli studenti che era a Piazza della Repubblica, dalla Sapienza siamo partiti, abbiamo raggiunto Piazza Fiume e qui abbiamo appena concluso dei picchetti davanti alla Rinascente, che insomma sia portassero alla luce le condizioni di sfruttamento che vivono tutti i lavoratori e le lavoratrici che si trovano dentro a questi grandi centri commerciali, che insomma che conosciamo tutti bene, visto che siamo anche molti di noi si trovano a fare questi lavori qui, e anche diciamo per parlare un po' di acquisti e shopping natalizi che in clima di crisi e di austerity comunque non si arrestano, il clima natalizio viene comunque perpetuato e portato avanti quando abbiamo insomma problemi ben più gravi e evidenti. Si è sanzionata qualche banca con vernice, cose di questo genere, adesso il corteo sta proseguendo, non so dirvi francamente dove andremo, molti di noi passeranno poi all'occupazione che hanno fatto gli studenti medi poco fa, che insomma immagino abbiate parlato. Sì. Perché ecco, era anche un po' il messaggio che lanciavano gli studenti medi, era quello di riappropriazione, quindi anche di riappropriazione di spazi, di riapertura di posti vuoti, che sappiamo a Roma ce ne sono moltissimi di posti vuoti e lasciati. Senti, ma che consistenza c'ha il corteo? Scarsa, diciamo, io non sono bravissima a fare i conti, però siamo qualche centinaio di persone. Oh, ho capito. Senti, i medi stanno adesso in zona Trastevere, voi pensate Trastevere, di raggiungerli? Sì, hanno occupato un posto lì a Trastevere, non credo che li raggiungeremo in corteo. Penso, ho capito, che insomma ci si scioglierà e ognuno poi raggiungerà, insomma farà quello che ritiene più giusto. Noi insomma li raggiungeremo per andare a sostenerli, perché ci sembra un'azione. Sì, beh, insomma, importante. Questa iniziativa è stata, insomma, almeno ha segnato la giornata, diciamo, da parte loro. Sì, decisamente sì. Quanti va bene. D'accordo. D'accordo, allora semmai ci risentiamo più tardi. D'accordo. Ciao, grazie, ciao. Buon proseguimento.